24 mattino. Allora, la Boschi ha detto che il presidente di Consob, Vegas, la invitò da sola a casa alle 8 del mattino. Io non sapevo che Vegas fosse anche produttore cinematografico. Lo stupore feroce di Gene Gnocchi, mentre sono le 7:19 minuti e 59 secondi e scattano le 7:20. E qui a 24 mattino entriamo nella sezione delle prime pagine per sfogliare insieme a voi i giornali. Allora, si discute di tante cose nelle prime di oggi, si discute ovviamente delle audizioni su Banca Etruria e sulla commissione d'inchiesta sulle banche, della testimonianza di Visco, ma si discute anche ora, oggi, un po' di Catalogna, perché siamo nell'imminenza del voto, e si discute ovviamente dei casi di cronaca e soprattutto della morte di Spelacchio. Allora, comincio proprio subito così con un giornale che contempla tutte queste notizie insieme, ma poi vedremo ci sono le differenze che ci aiutano a capire. Tregua sulle banche, Renzi e Visco frenati dal Quirinale. Quindi qui la notizia del giorno viene già interpretata alla luce di un retroscena e di un editoriale di Fabio Martini, notista politico principe del quotidiano Sabaudo. Per l'ex premier un pareggio ma a caro prezzo. Poi vedremo perché, lo leggeremo ovviamente. A Como vietato aiutare senza tetto, cacciati i volontari, il comune multa i clochard, il 24 dicembre manifestazioni di protesta, questa è la notizia di taglio centrale della stampa. Corriere dello Sport, Inzaghi, noi siamo più forti di tutto, lo titola, Lazio continuerà a fare storia nella sua città, chic, facci vedere, Roma-Torino alle 17:30, Di Francesco vuole i quarti di Coppa Italia, punta sulla voglia dell'attaccante ceco. Corriere della Sera, banche e la verità di Visco. Il caso, il governatore Renzi mi chiese di Etruria, non risposi, queste le parole del governatore che conoscete. Nessuna pressione da lui e dalla Boschi. Il richiamo in Mattarella, legislatura finita, andiamo al voto, ma con serenità. Una prova di forza rischiosa è la valutazione di Antonio Polito, che firma il fondo sul Corriere della Sera. Ma attenzione, di spalla, e lo troveremo anche sulla prima del manifesto, Ustica, ci dissero che avevamo colpito due MIG. Si tratta, voi ne avete avuto un'anteprima ieri, della testimonianza inedita, clamorosa, che conferma lo scenario battaglia nei cieli, pubblicata trasmessa in un documentario di Andrea Purgatori sulla strage, una delle stragi più inquietanti degli anni di piombo. Ilaria Sacchettoni anticipa il contenuto a pagina 21. Il Sole 24 Ore. Professionisti, più tutele per l'equo compenso. Manovra, sale a 3 anni il periodo per chiedere adeguamento, parametri più vincolanti. Niente blitz sul Jobs Act, nella pubblica amministrazione 50 euro a tutti. E c'è un corsivo, statali, il merito può attendere, breve, i Cassico, lo leggeremo. Visco su Banca Etruria, no a sollecitazioni dalla Boschi, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Renzi fece una domanda, io però non risposi. Ovunque arriva questo virgolettato, un po' sibillino del governatore di Banca d'Italia, e ovviamente la battaglia interpretativa su queste parole è aperta. Repubblica, Banca Etruria, la verità di Visco. Vedete anche qui una soluzione di questo tipo. Il governatore Renzi mi fece domande ma non risposi, e alla fine l'ex premier ringrazia. E contratti a termine, salta la riduzione. E poi il commento è: i risparmiatori non capiscono. Mentre invece la foto centrale è molto importante, qui leggerò un pezzo, Appennino e Raggi, la parabola delle stelle cadenti grilline. Sì, perché al quasi annuncio di ritiro della Raggi, che abbiamo sentito, se siete già collegati da un po', fa, come dire, da specchio la vicenda di Torino, dove c'è un grande momento di difficoltà della giunta, e qui lo racconta bene il fondo di Paolo Griseri. Avvenire. Pensare all'Italia, Mattarella, il voto è vicino, i partiti siano realisti. Banche, Visco scagiona la Boschi, Renzi chiese, questa è la sintesi. E l'editoriale di Maurizio Patriciello: Gabriele è il sindaco, noi i senza tetto e chi ha il potere. Parleremo di questa vicenda di Como, perché ovviamente è un po' emblematica. Sotto Natale accadono anche cose feroci. Il Fatto Quotidiano: Visco incastra Renzi. Qui l'interpretazione, come vedete, è assolutamente opposta. Mi chiese di Etruria, pensavo che scherzasse. Il Fondo di Peter Gomez: ora il PD deve rottamare il rottamatore. Ma il Fatto, un quotidiano pur vicino ai 5 Stelle, torna anche lui sulla vicenda della Raggi, su quell'annuncio un po' shock, ve lo facciamo risentire. La Raggi dall'abisso ai primi risultati, lascerò nel 2020. Il Fondo di Marco Travaglio: la normale di Arezzo, e non chiedetevi chi è, perché già lo sapete. La verità: anche Renzi trescava su Banca Etruria, trescava. Il governatore di Banca Italia, l'allora premier, mi chiese dell'istituto, gli dissi che ne avrei parlato solo con il ministro dell'economia. Sì, perché anche questo è un passaggio importante in questa ricostruzione. C'è il Fondo di Maurizio Belpietro con questo titolo: lo zio e la Boschi e i suoi amici si sono fatti dare 25 milioni di euro e poi non li hanno più restituiti. È una notizia che ha solo la verità. Mentre la foto: Naomi, Giselle e le altre, modelle di Versace in versione Islam, rivestite e con il velo. Il piede della pagina: a casa di Monte Carlo, presa con soldi rubati al fisco. Ale, pure questa non è male. Visco, Renzi, tregua su Etruria. Questa è la lettura della deposizione fatta da Il Messaggero, che torna ancora su Spelacchio. Un pezzo di De Cicco con una notizia in più: è esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. Beffa Spelacchio, non è stato gratis, al comune è costato 8.000 euro, sono i costi del trasporto. E ovviamente il taglio centrale, non poteva che dedicarlo il quotidiano della città, lo sfogo della Raggi: è un successo, se arrivo viva non mi ricandido. Libero, la scimmia di Banca Italia: Visco non vede, non sente, non parla. Ecco qui un'altra spigolatura, qui è criticato il governatore, ma c'è un pezzo che mi interessa molto e lo leggerò. Placido, mollato dall'attrice che lanciò a 17 anni, i due erano sposati, c'era una grande differenza di età, la giovane moglie lo scarica: Michele, sei troppo vecchio. Questa è veramente una vicenda malinconica per il modo in cui accade, quindi io condivido il senso della Menzani, che su questo è molto dura. Riposa in pace, fatto tipo comunicazione funeraria, il tempo di oggi: i romani commossi piangono la prematura scomparsa di Spelacchio. Il giornale: la Raggi cade dall'albero, a Roma muore Spelacchio, simbolo del fallimento dei 5 Stelle. Sì, perché è morto. L'insostenibile infallibilità di Banca Italia, il fondo di Nicola Porro: Renzi chiese su Etruria, Visco si lura a Matteo che finge di non capire. L'oro di Arezzo, l'oro senza apostrofo, ma loro due sono nella foto centrale del manifesto, Boschi e Renzi. E poi Daria Lucca, il soppalco di apertura: ci fu uno scontro con aerei libici, la Gazzetta, prove di Iova, Allegri e la Juve in aiuto a Dybala su due fronti. Allora, tante cose da leggere. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi andiamo con la lente di ingrandimento. Curiamolo, leviamogli il metadone. Jingle health, jingle. Assicurati per le feste con RBM Assicurazione Salute. Protegge la salute della tua famiglia. Regala una polizza sanitaria RBM. Fino a Natale, sconto del 25% sul totale del premio del primo anno per tutte le polizze online. Info e costi su tuttosalute.it. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su rbmsalute.it. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle, 10 pecorelle, 21 pecorelle, 100 pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Una pecorella, due pecorelle. Melatonina e valeriana ACT è un integratore alimentare a base di melatonina e valeriana. Acquistalo nelle migliori farmacie e parafarmacie. Melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. A Natale sono tutti più buoni. Se il regalo ce l'hai, non rischiare che i regali presi online non arrivino in tempo. Corri da MediaWorld. I nostri negozi sono sempre aperti con la migliore tecnologia a prezzi imbattibili. Buone feste da MediaWorld. Con AI per le imprese. Bentrovati. La domanda di oggi: quali sono gli adempimenti CONAI a carico di un'azienda importatrice di prodotti imballati? Risponde Walter Facciotto, direttore generale CONAI. I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero ricadono interamente nelle competenze CONAI e sono quindi sottoposti al contributo ambientale. Le aziende importatrici di prodotti imballati devono quindi iscriversi nella categoria degli utilizzatori, dichiarare e versare il contributo ambientale su tutti gli imballaggi che vengono immessi al consumo sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni vai su www.conai.org o chiama il numero verde 800 33 77 99. La giusta energia. Sono Francesco, ho 32 anni, benvenuti al mio bar. Nasce in un locale in disuso nel quale ho intravisto appunto le possibilità di creare un posto accogliente e nel quale ho investito poi i miei risparmi. Il momento successivo alla ristrutturazione, poi quello più importante, è stata la selezione del team e la formazione che poi ho curato personalmente. I consumi del nostro bar sono naturalmente importanti, dato che siamo aperti quasi tutto l'anno, da mattina a sera, con le colazioni, pranzi, poi concerti, aperitivi. Con i miei fornitori, compreso quello energetico, voglio un rapporto basato sulla fiducia e sulla competenza, un po' come il rapporto che noi abbiamo all'interno della nostra squadra. Alla fine quello che mi serve dal mio fornitore di energia è competenza e consulenza di qualità. Io tutte queste cose le ho trovate con Enel Energia. Scopri tutte le altre storie di Giusta Energia in collaborazione con Enel Energia su ilsole24ore.com. Enel Energia per il mercato libero. C'è un piccolo territorio nel cuore della Lombardia, ricco di storia, arte e natura, patria di un vino di altissima qualità. È la Franciacorta, viti dalla storia antica e metodi moderni. Franciacorta, una storia di passione. Ci hanno chiamato pazzi, noi di Costantin. Aprire nuove stazioni di servizio mentre gli altri le chiudono? Una pazzia. Prenderci cura della tua auto offrendoti i prodotti più adatti per affrontare l'inverno? Una pazzia. E ora che in questi giorni ad ogni rifornimento regaleremo una confezione di pasta del rinomato pastificio Dalla Costa, chissà cosa diranno. Buone feste dalle stazioni di servizio Costantin, dove fermarti ti conviene. Fai crescere la tua azienda in Europa con Erasmus Plus, il programma per l'istruzione e la formazione professionale. Partecipa al bando 2018. Circa 40 milioni di euro per progetti di mobilità in Europa per te, per i tuoi apprendisti, il tuo staff delle risorse umane e per finanziare le tue iniziative di cooperazione internazionale. Erasmusplus.it/formazione. Erasmus Plus, istruzione e formazione professionale, è gestito da INAP con il coordinamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Signori, 7:34 minuti, 5 secondi, 24 mattino, Luca Telese con voi, come sempre, e andiamo a Como. Come sapete, io apro sempre con una storia. E questa è una storia di Natale, ma un Natale un po' carogna, come quello dei tempi che stiamo vivendo. Niente latte caldo ai crochard, il Natale del sindaco di Como è questo. Allora, su Repubblica, a pagina 20, c'è il racconto di Oriana Liso, da Como. Da 7 anni, pensate, ogni giorno portavano la colazione ai crochard di Como sotto il portico dell'ex chiesa di San Francesco, a ridosso delle mura della città vecchia, andando a cercarli dove sanno che possono aver trovato un riparo per il freddo della notte. Ma da domenica, racconta Repubblica, i volontari del gruppo Colazioni di Como non possono più portare latte caldo e biscotti alle decine di senza dimora fissa della città. A vietarglielo sono i vigili, mostrando a tutti i barboni l'ordinanza antidegrado appena firmata dal sindaco, il forzista Mario Landriscina. Per tutto il periodo delle feste di Natale, 45 giorni è il tempo fissato, il sindaco vieta ai mendicanti, venditori abusivi e clochard di bivaccare, chiedere elemosina, vendere le loro mercanzie in tutto il centro storico, con multe fino a 300 euro. ma anche l'assistenza. Le prime 10 multe, con sequestro di cartoni, cappelle e merce abusiva, sono state già staccate nel fine settimana, fra ironie degli stessi commercianti che chiedono decoro e tranquillità per i loro clienti, ma non sono soddisfatti. 100 euro di multa a un mendicante? Scrive Repubblica. Non pagherà mai, è soltanto tempo sprecato per i vigili. E allora, la decisione del sindaco, o meglio, racconta in città del suo vice Alessandra Locatelli, leghista di Ferro, è stata giustificata proprio l'esigenza di non disturbare lo shopping e l'atmosfera natalizia della ricca città fra mercatini e piste di pattinaggio. Ma se di mattina la presenza di clochard e questanti è molto ridotta, il pomeriggio nulla sembra essere cambiato. Allora fermiamoci solo un secondo, perché le storie non ci scivolano sopra la pelle, non ci scivolino sopra la pelle. E si può fare tutto, si può fare anche un'ordinanza per il decoro urbano, però perché vietare il latte caldo ai clochard proprio nei giorni più freddi dell'anno? Che senso ha? Non si può certo dire che disturberà lo shopping, non si può certo dire che i volontari che la mattina nel freddo vanno a dare aiuto a qualcuno che sta male, che ha dormito all'addiaccio, non si può dire che loro rovinino lo struscio di una città. E allora questa piccola ordinanza, sento di dire, poi sentiremo i vostri pareri, sento di dirmi il mio, è un'ordinanza civetta, non cambia lo stile della città, come racconta Repubblica, ma forse ci porta un passo più in là, verso la cattiveria che con Natale mal si concilia. E a proposito di cattiverie, la seconda storia di copertina che vi illustro oggi è quella raccontata da Libero. Alessandra Menzani è andata a scavare su una vicenda che circola, sedotto e bidonato il titolo del pezzo, Michele Placido, single a 71 anni, ma non è tanto la separazione dalla moglie Federica Vincenti, che ora è diventata anche cantante, non è tanto quello, è la modalità. Un'intervista a Vanity Fair in cui la Vincenti, attrice teatrale e produttrice lanciata dal marito, ma di cui sfuggono le opere, scrive la Menzani, racconta come si è liberata del consorte definito ingombrante, testuale, e come di un bel giorno abbia scoperto che la differenza di età, 37 anni, ma come lo ha sposato, dico io, sia un problema. Da qualche tempo il mio corpo mi stava parlando, ma io non ero capace di ascoltarlo, dice la signora, raccontando di riassaporare il gusto delle proprie passioni. Racconta come l'uomo che accanto non vada più bene, l'amore cambia, spiega, quando all'inizio non ci pensi che un giorno quella differenza di età vi dividerà per forza di cose, che tra di voi ci sarà la vecchiaia e che sarà abissale. Federica rivela particolari dell'intimità, scrive la Menzani, Libero, pagina 29, che nessun marito vorrebbe far sapere. Cambia il corpo, cambiano i muscoli, le forze, dice Di Placido, cambia la testa, può togliere i pensieri il ricordo di un uomo che ha fatto la cultura del mondo, al pari dei mostri d'intelletto come Monicelli, Albertazzi, cambiano i desideri, le voglie non sono più comuni. Queste le parole di Federica Vincenti, ex signora Placido, e la domanda è, ma te ne accorgi adesso? Lasciarsi legittimo, conclude la Menzani, in alcuni casi persino naturale, scaricare un compagno o una compagna che non ci va più bene fa parte della vita. Dare del mezzo rimbambito a uno pur di andare su Vanity invece inutilmente crudele. Io non so se c'è come dire tutta questa premeditazione, dico solo che è la prima volta, e per questa che l'ho messa in apertura questa storia, che la vecchiaia viene messa a tema, la vecchiaia come insostenibilità, la vecchiaia come fine del desiderio. Il caso Placido forse resterà nella nostra testa come un archetipo. E allora andiamo a Ustica, sui cieli di guerra, andiamo lì dove Ilaria Sacchettoni ci porta questa sera. Andrea Purgatori, che è il giornalista che ha legato il suo nome per sempre al muro di gomma, l'inchiesta su Ustica, come abbiamo sentito ieri, sulla 7 lancia il suo documentario. Mi sembra molto interessante che ci sia una nuova testimonianza che parla dello scenario di guerra. Allora sentiamo Ilaria Sacchettoni, è un'apertura di pagina ovviamente, la nuova testimonianza d'Atlantide, torna l'ipotesi del volo colpito per errore. 37 anni dopo, una nuova testimonianza riaccende la speranza di raggiungere la verità sull'esplosione in volo del DC-9 che uccise 81 persone sui cieli di Ustica. Brian Sandlin, all'epoca marinaio semplice sulla Saratoga destinata dagli Stati Uniti a pattugliare il Mediterraneo, intervistato stasera da Andrea Purgatori, autore della prima ricostruzione sulla vicenda, racconta i fatti di cui fu testimone. È la sera del 27 giugno 1980. Dalla plancia della nave che staziona a poche miglia al Golfo di Napoli, il giovane Sandlin, assistente al rientro da una missione speciale di due Phantom disarmati, scarichi aerei che sarebbero serviti per abbattere altrettanti MiG libici in volo proprio lungo la traiettoria del 19. Quella sera, racconterà il marinaio, l'ex marinaio oggi settantenne, che aveva taciuto, dice lui, per paura, ci hanno detto che avevamo abbattuto due MiG libici. Era quella la ragione per cui siamo salpati, mettere alla prova la Libia. Allora, per chi interessa la storia, gli angoli bui della storia degli anni di piombo, una grande puntata. Io voglio aggiungere una chiosa che non è mia, è quella bellissima di un attore monologhista, Paolini, se avete visto il suo bellissimo spettacolo su Ustica. E Paolini prende spunto da una sigla, la sigla dell'aereo, che era I Tigi, il D19 di Ustica, e dice: i Tigi, intuizione poetica, non era una sigla, era il nome di un popolo, come i Romani, come gli Aztechi, come i Fenici. I Tigi era il popolo di chi vola e chi viaggia, i Tigi siamo noi. Ricordiamoci ogni volta che si parla di Ustica. Allora, abbiamo parlato delle colazioni, abbiamo parlato di Ustica, abbiamo parlato della Raggi, e andiamo a vedere che cosa ha detto sul Messaggero. E il Messaggero un po' azzuppa il pane, perché, diciamo la verità, ha combattuto spesso a viso aperto, ovviamente legittimamente, la sindaca. È quasi incredulo. Raggi, non mi ricandido, miracolo se arrivo viva, vedo già tanti vostri messaggi. La sindaca, difesa delle regole dei due mandati, però anche lo sfogo per la difficoltà. Freddi, i vertici del Movimento 5 Stelle, guardate quella voce, la risentiamo un attimo, è incredibile, perché è proprio, sembra che sgorghi questo sentimento di disagio. Si potrà ricandidare o... Sì, in base alla regola dei due mandati direi di no. Il dibattito sul secondo mandato che coinvolge... La regola è chiara e insomma ce la siamo data, mi sembra... Siamo al secondo anno. Tanto io direi che arrivare viva alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo. Simone Canettieri sul Messaggero, l'apertura di pagina 7, ma il retroscena, firmato sempre lui, processo, Ata che conti, le grane di Virginia che non vede l'ora di tornare a fare l'avvocato. E da questo passiamo per associazione sui 5 Stelle a quello che racconta Repubblica sulle difficoltà di Chiara Appendino a Torino. C'è un pezzo e un fondo di Griseri, sono le foto delle due sindache, le due super sindache di Torino e di Roma, oggi in un momento di difficoltà. Che cosa è successo all'Appendino? In una riunione di giunta un po' drammatica si è sbattuta la porta. Allora ecco il racconto, Diego Longhin da Torino, Repubblica, pagina 6. Una porta sbattuta, una riunione di maggioranza interrotta prima del tempo per eccesso di distinguo e attacchi da parte dei suoi consiglieri. Per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, meglio alzarsi al tavolo, prendere il plico e imboccare l'uscita, un modo per sfuggire al pressing. I tempi in cui la prima cittadina postava foto e riunioni dove tutti erano felici sono lontani, così come sono lontani le ricostruzioni che la indicavano come la candidata premier ideale, scrive Repubblica, del movimento di Grillo e Casaleggio. Nel gruppo dei pentastellati c'è chi alza la mano e chiede conto di ciò che succede, invocando trasparenza e chiarezza. La fiducia nell'operato di Chiara e dei suoi assessori non è più incondizionata. Vi dicevo che Griseri, a pagina 36, scandisce un editoriale: bocciata e fuga, anziché toccata e fuga. La minoranza protesta, la maggioranza 5 Stelle, che da un anno e mezzo governa Torino come un unico blocco di ghiaccio, lascia intravedere le crepe, fessure, spaccatura. Lunedì sera Chiara Appendino, visibilmente turbata, ha abbandonato la riunione della sua maggioranza dopo noi battibecchi e scontri durissimi. I nodi delle promesse elettorali stanno venendo al pettine, si litiga su come districarli. E ci sono tanti casi: l'azienda dei trasporti che non funziona, il presidente dei musei torinesi, i revisori dei conti che hanno deciso di non approvare il bilancio del 2010. Di fronte a questo quadro, scrive Griseri, i grillini si dividono, l'alternativa è chiara, oppone i sostenitori della Realpolitik ai sacerdoti della coerenza. Forse per salvare l'azienda dei trasporti servirebbe un socio privato. Questo è lo scenario dei fulmini che colpiscono con la morte metaforica, simbolica e spelacchio sia Roma che Torino, noi ci fermiamo un attimo e torniamo subito dopo le strade. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Fra 100 metri svoltare a sinistra. Mi correggo, svoltare a forse a destra. Fra 50 metri proseguire dritto. Forse. Invertire il senso di marcia quando possibile. Ma di destinazioni piccola impresa, quante ce ne sono? La piccola impresa è ovunque sia un artigiano. Da sempre fa parte del panorama italiano. Da sempre Confartigianato la rappresenta. Confartigianato, ritratto d'impresa. Mattino. Allora, alcune piccole grandi notizie. Manifesto, pagina 5, quello che dà maggiore risalto, è stradato in Italia Maurizio Tramonte, ma sapete chi è? È uno dei condannati, era un informatore del SID, ma anche un militante nazifascista, è stradato, è stato condannato per la strage di Piazza La Loggia, era fuggito in Portogallo, è stato fermato ormai mesi fa, è stato estradato solo adesso, già condannato all'ergastolo, aveva provato la fuga, ma lui aveva detto, quando l'hanno fermato gli agenti internazionali, ho avuto una crisi mistica, volevo andare a Fati. Ma capita le crisi mistiche dopo le condanne. E vi dicevo del passaporto, il passaporto del giornale, come dire, il passaporto proposto dai sud tirolesi, dal governo austriaco. C'è un raffreddamento, c'è un rallentamento dopo le enormi polemiche suscitate. Io ricordo qui i messaggi di molti che dicevano: allora lasciate l'autonomia pagata dalla Lombardia e dal Veneto se volete il passaporto. E c'è stata una frenata dopo questa mossa. Solo in accordo con l'Italia, il cancelliere Kurz rassicura sulla doppia cittadinanza agli altoatesini o sud tirolesi. Ieri ho incontro con Juncker, oggi con Tajani, il 31enne neocancelliere austriaco rallenta perché c'è stata una levata di scudi che evidentemente ha preoccupato anche loro. C'è un pezzo che meriterebbe di essere letto, oltre a questo che stavo citando, di Roberto Fabbri, in apertura di pagina 10 del giornale, di Gaia Cesare. Sprach Gruppen Zugel Kester Klung. La parola impossibile che infiamma il confine e l'appartenenza al gruppo linguistico su cui si gioca lo scontro con Vienna. Bene, allora abbiamo quasi letto tutto. No, due lampi sul Corriere. La lista della cosiddetta quarta gamba del PDL perde Quagliariello. La Bonino minaccia di andarsene e di non riuscire a raccogliere firme per i radicali. Grande il disordine nella politica, ma noi andiamo nella pagina del denaro. Io non creo niente. Io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Gordon, sì, siamo ingenui e crediamo di essere in una democrazia, malgrado il tuo cinismo. Allora, dicevo, professionisti più tutele per l'equo compenso e l'apertura del Sole 24 Ore, però è ovviamente molto importante anche il corsivo di prima pagina, corsivo siglato, GP sul Sole. Passare dalla parola ai fatti è sempre difficile, stiamo parlando degli statali, il merito può attendere, soprattutto in politica, in particolare a pochi mesi da una scadenza elettorale. Se poi si tratta del pubblico impiego, l'operazione è sconsigliata, e così, nonostante le buone intenzioni, introdurre almeno una piccola dose di meritocrazia e una parvenza di sistema premiante fra i dipendenti pubblici, alla prova dei fatti si preferisce percorrere la solita strada: 50 euro netti di aumenti uguali per tutti. Fatti i conti, sarebbe troppo rischioso invertire la rotta. ma a voler raccontare tutti e accontentare tutti con poco si finisce per scontentare i molti dipendenti pubblici che sono i primi a chiedere che sia premiato il merito sul posto di lavoro. Posso dire che dopo tante discussioni ai cani e gatti sono perfettamente d'accordo con questo corsivo del sole, ma non avevamo detto si premiava il merito, diamo 50 a tutti? E qui il bonus indifferenziato, un po' maoista, lascia l'amaro in bocca. E parto dal sole per raccontare Visco su Banca Etruria. Vi ho già letto tutti i titoli. L'apertura di pagina 4, il pezzo di Davide Colombo. Su Etruria Renzi fece una domanda, io non risposi. Nei lunghi anni della crisi che ha punteggiato il suo primo mandato alla guida di Banca d'Italia, Ignazio Visco, scrive il Sole, ha avuto rapporti di collaborazione pienissimi con i presidenti del Consiglio dei 5 governi che si sono susseguiti. Da Berlusconi a Renzi ha risposto il governatore al presidente Casini, i confronti sono stati nel merito della crisi economica delle banche. Non ho mai parlato, eccetto che con Padoan, di questioni relative alla vigilanza. Quindi il punto di partenza è questo forte richiamo di autonomia. Questa frase è un po' sibillina, ma anche questo punto messo da Visco nella polemica che dice «Io parlavo solo con i competenti» e per questo, dice, alla domanda di Renzi non risponde. E Renzi, dal canto suo, mettendo da parte, come dire, le polemiche con Banca Italia, ieri saluta quasi in diretta, pensate, non si era ancora alzato il governatore, saluta dicendo: ringrazio molto il governatore Visco, sempre Emilia Patta, dal Sole 24 Ore, per le parole di apprezzamento che ha rivolto al mio governo nella sua edizione di questa mattina. Confermo che abbiamo sempre avuto la massima collaborazione istituzionale, anche quando non eravamo d'accordo su tutto nel merito. Mi fa piacere che egli, scrive Renzi, dice Renzi, riferito da Emilia Patta sul Sole, fughi ogni dubbio sul comportamento dei ministri. Quindi vi ho letto dalla impostazione, diciamo così, del Sole che cosa è successo, proprio i fatti, la vignetta meravigliosa della verità. Commission impossible, e c'è una foto di Maria Elena Boschi con uno scenario tipo e la grafica di Mission Impossible. E Amadori, l'inchiestista che più sta scavando sui retroscena societari, con i prestiti allo zio della Boschi, la banca del babbo perse 25 milioni. Per le fiamme gialle, Stefano Gressi, fratello della mamma di Mariella, grazie a conoscenze retine, avrebbe per il suo gruppo molti fidi, poi trasferiti i debiti a società, non li ha restituiti. Questo è la verità, e poi il fondo, ma c'è anche chi saluta, e allora andiamo, come dire, questo punto come una sorta di di tregua in commissione, ma come uno smacco per i risparmiatori. È l'editoriale di Manacorda che c'è su Repubblica, e poi la ricostruzione di Andrea Greco, come la piccola Etruria diventò la zavorra di Renzi. E un altro passaggio importante, la sfumatura, nel racconto di Visco, e lo sto prendendo da Rosario Amato e Tommaso Ciriaco su Repubblica. Durante un incontro del 2014, una domanda su Etruria Renzi la fece e io non risposi, disse che di banche in difficoltà parlavo solo con il ministro dell'economia. Ci fu un'applicazione rigorosa del segreto d'ufficio, pensate, segreto d'ufficio col presidente del consiglio, un colpo diretto a Renzi, scrive Repubblica, anche se non quello del KO, come la secchiata ironia che segue. Il premier mi chiese perché Vicenza voleva prendersi Arezzo e parlò degli orafi, la presi come una lunga battuta. Allora ci fermiamo e vi terrò le perle della mitragliata per subito dopo con i cani e con i gatti.